You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Bentornati da Valentina Furlanetto. Indovina chi viene a cena, questo appuntamento di Radio 24 che attraverso la conoscenza di italiani che hanno qualche radice altrove parla di cucina, di identità, di gusti e soprattutto dell'identità di ciascuno di noi. Questa sera cena araba, ebraica, danese, italiana. Abbiamo un bel mix con Oliver Durand. Buonasera. Grazie per essere qui. Allora, Oliver è un danese per modo di dire, perché insomma nato a Copenaghen, ma risiede in Italia da quando avevi 4 anni, no? E ora è professore associato di dialettologia araba presso la Sapienza, quindi hai soggiornato tanto a Israele, in Marocco, hai una conoscenza ovviamente approfondita dei paesi arabi e di Israele. E adesso hai pubblicato questo racconto, questo libro, un romanzo, La ribellione del manoscritto, per le edizioni Asino d'Oro, in libreria da pochissimi giorni, e per questo dicevamo una cena che è un mix di culture, perché questo romanzo è ambientato fra Parigi, la Tunisia, Roma, un bel mix, e mi pare di capire che anche la tua identità, la tua cultura sia un mix, no? Sì, io sono nato in Danimarca per motivi lavorativi di mio padre che lavorava lì, quindi sono lasciato Copenaghen quando avevo 4 anni. È una città che mi è rimasta molto fortemente nel cuore. Poi dal 63, come ricordi, sono stato in Italia, non 52 anni continui, nel senso che ho provato a scappare, ma l'Italia ti risucchia prima o poi, quindi sei tornato. Sono stato in Francia, poi in Israele, in Marocco, 3 anni, e poi adesso sto qua per ora, insomma, vediamo. Culturali, linguistiche e gastronomiche, come ricordi tu. Sì, infatti stavo per chiederti, come sempre al nostro ospite, noi chiediamo che piatto ha portato. Nel tuo romanzo, di cui parleremo tra poco, questo brillante professore universitario Sulaiman El-Kabit è anche un cultore del cibo e racconta spesso di quello che cucina. E quindi, Oliver, che cosa ci hai portato? Diciamo delle varie specialità che sin dai 13 anni, quando mia madre mi insegnò a farmi dare volte gamino a cose un po' più complesse, è diventata un po' una mia passione. A me piace cucinare, mi piace avere ospiti con i quali esibirmi con ricette strane. E si capisce, perché anche nel tuo libro, insomma, i vari personaggi parlano spesso di vini, di cibo. Ma qual è il gusto che ti è rimasto nel cuore delle varie radici, dei vari passaggi in questi paesi che ci raccontavi? Ma non è che ce ne sia uno che predomini, diciamo che ogni volta che mi passa per la mente di fare un piatto danese, un piatto arabo, africano o grassamente francese, è il momento in cui rivivo una certa emozione sensoriale, chiamiamola così. Io penso che chiunque abbia avuto l'esperienza di vivere, di starsene lontano dal proprio paese per un periodo prolungato, quando torna a casa viene colpito da 2 emozioni, sentire di nuovo la lingua o il dialetto locali e annusare gli odori di cucina. In effetti sono le due temi che ricorrono spesso anche nel tuo romanzo, quello del cibo, dell'identità attraverso il gusto, l'odore, il vino, e quello soprattutto della lingua, perché poi tu sei uno studioso del linguaggio, no? Io ho una formazione da linguista, quindi ovviamente porto attenzione anche quando leggo romanzi leggeri, mi piace molto, cioè sono sensibile all'uso, alle scelte di parole, di espressioni, anche sintattiche, insomma, credo che sia importante, ogni scrittore, diciamo, contribuisce all'arricchimento della lingua in cui scrive. La ribellione del manoscritto, infatti, è proprio l'incipit, è centrato sulla lingua, sì. Ed è, lo leggiamo brevemente, come Sulayman sospettava, le due voci non parlavano ebraico ma arabo. Esatto. Che gli ebrei italiani parlino ebraico tra di loro è un luogo comune presso i semicolti. Sulayman dice: in quanto marocchino stabilito da anni in Italia, aveva talmente fatto l'abitudine ai pregiudizi da aver superato ogni forma di speranza nel fatto che l'italiano di tutti i giorni potesse un domani diventare meno analfabeta in materia di apertura mentale nei confronti dell'extracomunitario, tra virgolette. Lui sapeva bene che cosa significasse essere guardato come un islamico geneticamente predisposto ad accoltellare gridando Allah con gli occhi roteanti. Poveri italiani, non si ricordano neanche di come venivano guardati e trattati soltanto 60 anni fa, prima in Germania e in Svizzera. Niente da fare. L'ex pezzente che incontra un neo pezzente non ha altro riflesso che dargli del pezzente. Insomma, un bel quadretto. Sì, detto, diciamo, la mia esperienza da quando ero bambino, parlo degli anni 60, in cui in Italia non c'erano stranieri, perlomeno africani. Se due africani si incrociavano per le vie di Roma, stavano mezz'ora a stringersi la mano. E quando si parlava di razzismo, gli italiani dicevano: ma noi non possiamo essere razzisti perché sembrava fin troppo bene che cosa significava per noi quando eravamo in giro per la Germania, Australia, dove si trattavano i pezzenti. Ma questo non riguarda soltanto gli italiani, tutti quelli che hanno avuto questa esperienza, tornati a casa e che adesso stanno bene al CED, vedono un neopezzente, tra virgolette, e invece di solidarizzare dicendo: sai, so cosa significa, ti preoccupare, piano piano le cose si sistemeranno, no, gli sputano un occhio. Lo chiamo l'effetto specchio, è chi vede se stesso 30 anni prima rifiuta l'immagine. A me veniva in mente, mentre parlavi, più che l'Italia, la Polonia e l'Ungheria di questi giorni, nel senso che il nostro stupore davanti alla loro rigidità, in realtà stupore perché appunto appena 50 anni fa erano loro i profughi che venivano accolti, in realtà risponde a questo meccanismo. Tu cosa ne pensi? Io penso che, lo dico sempre anche a lezione, che non esistono persone non razziste, va bene? Dico che il razzismo è insito in ognuno di noi, purtroppo. Poi, crescendo, c'è chi lo accetta, lo coltiva, lo trova normale, ma c'è chi invece ragiona e lo combatte. Lo combatte in primo luogo dentro se stesso, nel senso che il mondo è fatto di razzisti e antirazzisti. L'antirazzista è quello che deve cominciare a lavorare su se stesso. Libro molto appassionante, bisogna capire per quale motivo questo studioso ebreo di letteratura giudeo-araba medievale è stato ucciso, quale segreto aveva portato alla luce, per questo forse era stato ucciso. Quindi vi stiamo parlando di un romanzo, tra virgolette, giallo, nel senso che si legge come un romanzo in cui c'è un mistero e c'è un assassino e bisogna scoprire chi l'ha ucciso, però è pieno di digressioni. Come mai hai deciso di scrivere questo libro? Cosa ti ha spinto? Guarda, credo che nessuno scrittore abbia una risposta alla domanda perché scrivi o perché hai deciso di scrivere. Ma è il primo di narrativa, vero? Sì, io ho scritto altri libri, ma tutti di linguistica, di saggistica, eccetera. Questo è il primo tentativo di narrativa. Chi l'ha letto l'ha qualificato di thriller, spy story, giallo, poliziesco, noir, storia d'amore, perfino pornografico, per via di una scena un po' forte che c'era verso la metà. Io mi sono divertito a condirlo con identità diverse, identità culturali, linguistiche, spesso mescolate, perché se vogliamo l'aspetto militante di linguista è anche quello di, come dire, io sono docente universitario e quindi il mio impegno prioritario non è tanto quello di trasmettere conoscenze eccetera, ma di indurre lo studente o chi mi ascolta a riflettere. Bene, quindi fa capire che esistono tantissime persone che non sono monoculturali eccetera, e che il cosiddetto tanto sbandierato multiculturalismo, di cui si parla tanto in Italia, si fa bene a parlarne, ma che viene spesso scambiato con ghettizzazione, non è quello. La ghettizzazione nel senso, io sono democratico, quindi tu puoi rimanere, ma nel tuo quartiere ci salutiamo e non ci diamo fastidio. Questa è ghettizzazione. Multiculturalismo significa incontro. Il dialogo non significa parlare, no, significa osservare, ascoltare, pronti a tutte le sorprese. Se la cosa è reciproca, allora c'è dialogo, anche se non c'è una lingua di comunicazione che arriverà piano piano, perché poi le lingue si imparano in qualche modo. Riprendo le parole di Tahar Ben Jelloun, scrittore marocchino che ha scritto tutto in francese, le culture sono complementari, non ce n'è una migliore delle altre. Ma ogni cultura, diciamo, è monca se non accetta di guardare, o non ha la possibilità, perché c'è chi è isolato o in qualche modo, di guardare, studiare, osservare altre culture. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24. La passione si sente anche in viaggio. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Giallo è una ricetta in qualche modo, ci vuole un omicidio, ci vuole un enigma e poi ci vuole appunto un personaggio o più di uno, che ha fatto spesso questo professore che viene coinvolto dall'indagine con la commissaria Nura Marea, che poi diventa la sua compagna, insomma, nel corso della narrazione. E cercano di capire che cosa la dinamica è movente, che cosa è successo. Anche lei non è totalmente italiana, è italo-tunisina. È italo-tunisina, ma di madre ebrea, quindi ebrea per la legge, lui è musulmano. Sì, si tratta anche di presentare questi personaggi di cui si sente parlare, insomma, si parla poi dell'Italia di oggi. Musulmani oggi, sappiamo tutti che il timore di alcuni mesi fa si è trasformato in terrore per via di atrocità, che sappiamo tutti, che però sono atto di Islam, no? Cioè, io ci tengo a dirlo così, che ripetiamo fortemente, che l'Islam non è l'ISIS. L'ISIS, il cosiddetto Stato Islamico, è una banda di psicopatici che si cibano di anfetamina la mattina e la sera. Sono buffoni pericolosissimi, ma buffoni rimangono. Certo, spaventano anche me. Però quello sono. Perché dici si cibano di anfetamine? Quando ci fanno vedere questi filmati in cui c'è un esaltato che dice adesso arriveremo, non avrete più pace, basta guardarlo negli occhi per capire che è drogato. sono animati da un'interpretazione dell'Islam che è completamente fuori, e questo è stato dichiarato anche con fermezza e chiarezza da Usama al-Abd, che è l'attuale rettore dell'Università Religiosa dell'Al-Azhar al Cairo, la figura spirituale maggiore che più si avvicina, diciamo, a quello di un papa. Non c'è un papa in Islam, ma lui stesso lo ha detto, insomma. Io vorrei che l'Islam ufficiale, non parlo di Islam moderato, Islam moderato, non so cosa sia un cattolico moderato. Esiste un Islam, moderato. Tu dici, no, non un Islam moderato o non moderato. Un cattolico moderato chi è? Qualcuno che prega con moderazione? Qualcuno che crede in maniera mitigata? Che fa carità con parsimonia? No, io parlo di musulmani normali. Musulmani normali, cioè persone che vanno in cerca di amicizie e di condivisione. Questi sono i miei amici musulmani. E dico bene musulmani e non islamici. Non mi piace chiamarli islamici. È un termine che si è imposto da diversi anni, ma che piace, perché fa pensare a satanico, malarico, tetanico. No, sono musulmani. Oliver, quello che io ti chiedevo a proposito dell'ambientazione del tuo romanzo è anche se è un romanzo in parte autobiografico, cioè cosa c'è di te nel professore universitario di origine marocchina che fa le indagini insieme al commissario? Se Sulaiman sia io, è il mio personaggio, ovviamente gli ho prestato delle mie cose, dei miei vestiti in qualche modo. Gli attribuisco anche delle cose che io non so fare, forse vorrei saper fare, per esempio io non sono cintura nera di Kendo, mentre lui lo è, ma si riflette in lui dei miei gusti, ma penso anche tutti gli altri personaggi hanno qualcosa di me, come qualsiasi scrittore penso faccia con i suoi personaggi. C'è un passaggio nel tuo libro in cui si parla c'è un personaggio che parla della religione ebraica. Dice: la religione, quella maledetta religione, sono stufa di essere ebrea. E poi va avanti raccontando anche con una metafora interessante, quella del ghetto mentale, cosa vuol dire essere ebreo oggi, no? Guarda, io sono un ebreo molto, molto distaccato, nel senso che non ho avuto discrezione religiosa, quindi mi considero ebreo, se mi chiedono lo dico, ma non lo so né in maniera religiosa né in maniera nazionalistica, sionista. Per me essere ebreo è soltanto una militanza, nel senso che sono figlio di scampati della Shoah. Quindi se riapparisse la Gestapo in questo momento mi arresterebbe. Io dico sempre, e non sono molto popolare per dire questa cosa, che l'antisemitismo non riguarda soltanto gli ebrei, riguarda noi in primis naturalmente, ma se quanto sto facendo lezione entrasse la Gestapo arresterebbe me per primo, va bene? Arresterebbe tutti i musulmani, tutti gli arabi, tutti gli africani, e un po' tutti quanti, perché contaminati dalla mia lezione. Tornando a temi invece più leggeri, c'è un passo che mi ha fatto molto sorridere. I cinque tacquero con fare religioso nel vedere arrivare i carciofi alla giudia fumanti. Sulayman aveva spiegato che la specialità giudeo-romana va consumata bollente, altrimenti diventa cartone nel giro di 30 secondi, e il carciofo alla giudia del barbiere al ghetto merita un rispetto contemplativo. I piatti furono presto vuoti. Ci sono spesso queste incursioni del cibo e dell'estasi con il quale viene consumato e viene anche ammirato, no? E anche in questo caso il fatto che sono carciofi alla giudia, insomma, hanno un significato anche, non dico religioso, ma sicuramente culturale per la nostra cultura, per Roma, per l'Italia, no? Ti ha divertito fare queste incursioni? Moltissimo. Il carciofo alla giudia l'ho così un po' magnificato, perché in realtà è una ricetta non soltanto giudeo-romana, ma che tutti i cultori di Roma, quello che io chiamo la romaneschità verace, sono al corrente. Insomma, la cultura giudeo-romana è presente nella mente di chiunque abbia così un amore per la storia, la cultura di una Roma di una volta, insomma, che c'è sempre, ma e che è fatta anche di cose giudeo-romane. Su queste ricette a volte si può anche litigare. Tempo fa avevo avuto due ospiti, una palestinese e un'altra israeliana, che un po' si contendevano la ricetta dell'hummus. Certo. No, il hummus è una ricetta araba. Se non altro vicino orientale, perché la fanno anche in Grecia, però i libanesi dicono che è loro, gli israeliani, i palestinesi. Sì. Poi gli israeliani hanno creato una tradizione culinaria che va da quella vicino orientale a tutta una serie di piatti che vengono dall'Europa centrale. Sulayman è chiaramente un personaggio che può entrare nel cuore del lettore. Tu hai pensato a questo come il primo di una serie di romanzi? Hai già in opera il secondo? Ti dico che il secondo è già pronto, va ancora ripulito sugli ultimi dettagli, e sto lavorando al terzo. Quando uscirà il prossimo romanzo, a questo punto, la prossima puntata? Questo bisogna vedere l'editore, che ancora sta facendo le corna sul primo volume. Come andrà? Quindi per tutti coloro che sono all'ascolto, il consiglio è di andare in libreria a prendere La ribellione del manoscritto per Edizioni Asino d'Oro. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Oliver Duran, buona serata. Arrivederci. La cucina marocchina è una cucina ricca di sapori, anche molto forti, che sono il risultato di una fusione di gusti e sapori tramandati di generazione in generazione. Alla base c'è la tradizione araba, la tradizione berbera dei nomadi, sulla quale si innestano le influenze orientali ebraiche, e quelle ispano-andaluse, e infine l'uso francese. La popolazione andalusa dal sud della Spagna insegnò ai marocchini a utilizzare ingredienti quali olive, olio d'oliva, alcuni frutti, le noci e le erbe nella preparazione dei piatti. Gli arabi invece introdussero le spezie, diverse varietà di pane e piatti a base di granaglie. Anche la cucina francese e italiana sortirono un profondo effetto sulla cucina marocchina tradizionale. Il piatto nazionale più famoso nella cucina marocchina è il couscous, aromatizzato e speziato e condito con carne o verdure, o pesce e verdure. Un altro piatto tipico della cucina marocchina è il tagine, o tagine, che prende il nome dalla casseruola di terracotta di forma conica in cui viene cotto. Può essere a base di agnello, manzo o pesce, con verdure, mandorle e prugne, e speziato con cannella e zafferano. Nella cucina marocchina, dopo un buon pasto, non esiste bevanda più dissetante e digestiva del tè alla menta. Il tè utilizzato per preparare questa bevanda è il tè verde Gunpowder, noto per la sua freschezza e le qualità dissetanti, che viene servito zuccherato e aromatizzato con foglie di menta selvatica del Marocco, dal profumo e dal gusto molto più delicato della menta piperita. Per quanto riguarda i dolci, questi sono spesso a base di mandorle, miele e zucchero. I prodotti di pasticceria più tipici nella cucina marocchina sono il Kaab el Ghazal, o corna di gazzella, preparati con la pasta di mandorle e lo zucchero, la torta di miele, il Ghoriba, a base di mandorle e amaretti, e la Shebakia, il dolce più popolare nella cucina marocchina, che si consuma molto durante il mese di Ramadan. Grazie a tutti voi per l'ascolto e a Gianmarco Ferronato per l'aiuto in regia questa sera. Io vi do appuntamento a sabato prossimo con Indovina chi viene a cena. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. Ciao. You've got to give a little. That's the glory of love.